Continuiamo la lettura del libro sapienziale dei Proverbi, anche se mi dispiace lasciare questo Vangelo di oggi, Matteo 5, 38. Abbiamo tanta abbondanza di parola di Dio, soprattutto in Quaresima, e dovremmo farne frutto. Io continuo con questa lettura dei libri sapienziali perché vedo che ci stanno dando tanti spunti. Forse oggi però sarete rimasti un po' sorpresi sentendo che si parla della formica, e forse ci sarà venuto in mente quando eravamo bambini, 50 anni fa, 40 anni fa, quando sui libri di scuola si parlava della formica, della cicala, per insegnarci a risparmiare, a non essere persone sprovvedute che fanno come le cicale. E direte, come mai la parola di Dio scende a questi livelli? Il fatto è che non scende affatto. Resta sempre su un alto livello, perché le virtù sono un dono di Dio. E se si parla della laboriosità e della capacità di accantonare della formica, non si parla di capitalismo o di che cosa, si parla del formare rettamente una persona. Anzi, lo sa il Signore se non occorrerebbe ancora ai nostri giorni ritornare a parlare delle virtù che chiamiamo umane, per distinguerle dalle virtù cristiane, quelle teologali e quelle cardinali. Le virtù umane, sarebbe importante parlare ancora della laboriosità, o no? E parlare del risparmio? Eh no, oggi ci aspettiamo tutto dallo Stato, ci aspettiamo tutto dagli altri. Adagio, adagio, adagio, adagio. Comunque, la capacità di risparmiare è una capacità pienamente umana e pienamente cristiana. Non vi sembra che vada d'accordo? Non voglio entrare troppo in questi discorsi perché mi prenderebbe la mano. L'ecologia che cos'è? Non è la virtù del risparmio applicata all'uomo, applicata al mondo? E l'onestà? Onestà esiste ancora? Certo che esiste, amici. È un po' come una violetta nei campi, nascosta, ma è bellissima quando la scopri. E la gentilezza e la generosità, e moltiplicate voi le virtù umane. Oggi mi fermo su questa della laboriosità della formica e la voglio applicare anche alla vita cristiana. Quante volte, amici, noi stessi o i nostri figli siamo preda della pigrizia. Mi riferisco in particolare alla preghiera. Tante volte, ve l'ho già detto in passato, noi dobbiamo organizzare la preghiera con un programma, con la programmazione. Un po' c'è già, la messa domenicale è programmata. Voglia Dio che si dicano ancora le preghiere della sera. Il mattino ormai sono tramontate, la gente dice che non c'è tempo. Almeno quelle della sera e quelle prima del pranzo. Io parlando con i chierichetti, parlando con un po' di bambini, dico, non facciamo. Il mio cane, quando mangiava, non faceva mai il segno di croce. Era una bestia. Noi siamo cristiani. Ringraziamo Dio e così via. Ma concludo lasciandovi un invito. Lo prendo da Don Bosco. Ancora una volta i santi sono veramente dei grandi maestri. Se tu rimandi il momento della preghiera, diceva Don Bosco, tantissime volte alla fine lo salti. E la nostra esperienza ce lo conferma. Concludo dicendo, cari cristiani, proviamo a rispolverare questi libri sapienziali. Siracide, l'abbiamo già detto, questo libro dei Proverbi. Magari scegliendone qualcuno da proporre anche ai nostri nipoti. Pensate che bello. Li istruiremmo umanamente, oltre che cristianamente, usando le parole della Bibbia. E i nostri nipoti in questo modo scoprirebbero che la Bibbia non è una cosa vecchia, un libro impolverato, è un libro di sapienza.